Questo capitolo ottavo del Vangelo di Giovanni ci propone un brano famosissimo chiamato L'adultera. Noi dovremmo cercare di capirlo in sé, quale insegnamento Gesù voleva dare ai suoi discepoli di allora, per poi riportarlo ai nostri giorni, perché veniamo in chiesa proprio per questo. Per imparare la nostra fede, per imparare la sequela di Gesù da lui stesso. Allora ve lo riporto per sommi capi, è già chiaro in sé, ma dovendo ragionarci sopra, ebbene, a quel tempo c'era nella legge mosaica, sostanzialmente era un regime teocratico, cioè dove la legge civile era data dalla legge religiosa. Ci sono ancora nazioni così, l'islamismo è così. Quando si vuole portare la legge del Corano dentro nella vita di tutti i giorni, amici, dobbiamo conoscere un pochettino, dobbiamo altrimenti. Allora, il tradimento, l'adulterio, era considerato un duplice delitto, uno contro Dio, contro il sesto e il nono comandamento, secondo contro il marito. Era un torto fatto al marito perché la donna era sua proprietà, sostanzialmente. In questo quadro chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare? Perché la legge è chiara, ma sotto c'è una trappola nella domanda. Allora dobbiamo condannarla? E la legge direbbe questo. Se Gesù avesse detto di sì, avrebbero avuto buon gioco a dirgli: ma come? Ma tu sei venuto a parlare della misericordia, del perdono. E poi gli avrebbero detto: condannarla, ma noi non possiamo, a morte, tocca solo all'autorità romana, quindi tu sei un rivoluzionario contro Roma. Non dobbiamo condannarla? Allora tu vai contro la legge di Mosè. E poi se non la condanniamo, tu ti schieri contro Roma. E Gesù sembra non aver via d'uscita. Ricordate un po', è simile la questione alla moneta, no? Dobbiamo pagare le tasse a Roma, sì o no? E Gesù come risponde? Risponde non con una furbata, potrebbe sembrare, no? Beh, sì, è colpevole, però chi di voi è senza peccato, cominci lui a scagliare il sasso. Non è semplicemente così. Gesù risponde attingendo a un'altra risposta, che magari adesso vediamo, ma proviamo per un istante a pensare se noi fossimo stati in quell'aula di tribunale. Con quelle leggi lì, che cosa avremmo detto sui giornali, che non c'erano? Sui giornali cosa avremmo letto? La giustizia è stata offesa, non è stata resa giustizia al marito, non è stata resa giustizia a Dio. Se l'avessero condannata, giustizia è stata fatta, la giustizia ha trionfato. Già, ma dov'era quell'uomo che anche lui ha tradito con questa donna? A lui è assente, eh? Che solo la donna è colpevole. In questo clima, bella giustizia, si pecca in due, ma solo la donna viene colpita. Che giustizia rivendicavano dunque questi farisei? Gesù non casca in questa trappola e dice: se noi dovessimo, è colpevole, quindi ha tradito contro Dio, contro il marito. Se noi dovessimo cominciare a lapidarla, però, voi, che cosa colpireste? Colpireste il peccatore o colpireste il peccato? Eh no, colpireste solo il peccatore. Il peccato non lo colpireste, tant'è vero che ce l'avete anche voi identico. È interessante, cominciarono ad andarsene cominciando dai più vecchi, che avendo più età hanno avuto più anni per sbagliare, magari alla stessa maniera. Che grande insegnamento ci dà Gesù. Non dice, no, non è colpevole, mandiamolo a casa. È colpevole. Ma la vostra giustizia, che giustizia è? Se colpisce il peccatore e non il peccato, Gesù darà un'altra linea. Bisogna colpire il peccato, ma salvare il peccatore. E lui è venuto sulla croce esattamente per questo. Colpire i peccati, ma salvare i peccatori. Come si potrebbe riportare ai nostri giorni un insegnamento così? Perché se fosse ai nostri giorni, ripeto, tanta gente direbbe Gesù ha sbagliato, eh? La pena di morte c'era, va applicata. Io, mentre ripensavo a questo, ho avuto come un flash. Il figlio di Vittorio Bachelet. Io ho fatto in tempo un po' di anni fa a vedere il funerale di Vittorio Bachelet e mi ricordo ancora questo giovane universitario che sale come io sono qui a Lambone a pregare. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Non è molto tempo che c'è stato un anniversario importante e questo è stato richiamato. Nella preghiera dei fedeli, questo figlio che ha avuto il papà assassinato dice: chiedendo che la giustizia faccia il suo corso, quindi non è che dice non è colpevole, non sono colpevoli, però io perdono e prego per coloro che hanno ucciso mio padre. Amici, questa è la logica di questo Vangelo. Dire che una cosa è sbagliata, però si sottolinea che va pagata, però io non devo avere il desiderio di vendetta e il desiderio di giustizialismo. Un altro esempio? Giovanni Paolo II è a Liaccha, ha tentato di ammazzarlo, solo per un miracolo il Papa dice della Madonna di Fatima. Una mano ha deviato questo proiettile che era fatto per uccidere e il Papa va a trovarlo in carcere, gli perdona, pur restando in carcere, e lo abbraccia. Io credo che se riflettiamo bene questo brano di Gesù e questo comportamento di Gesù è perfetto. Non dice fa niente, perché negare la colpa ci consegna al caos, ma non dice nemmeno vendetta ci vuole, perché questo non è un messaggio evangelico. È per questo, amici, che la Chiesa finalmente l'ha capita anche lei, perché anche la Chiesa sta, noi cristiani, stiamo imparando il Vangelo adagio adagio e ha detto la pena di morte no. Ma quanti cristiani ci sono che contro questo insegnamento la vogliono? Così la gente non sbaglia perché è un deterrente. Amico, studia le statistiche e vedrai che dove c'è la pena di morte i delitti non sono diminuiti. Perché o tu strappi il peccato dal cuore dell'uomo Oppure, anche se c'è la pena di morte, i tradimenti si fanno ancora. Ammesso che ci siano paesi, non so, non conosco bene le legislazioni di altre religioni, so che in alcune legislazioni se rubi ti tagliano la mano, lo sapete, no? La mano destra. Ma non è che i furti diminuiscono. Probabilmente Gesù ci insegna che salvo il diritto, però noi dobbiamo colpire il peccato, ma perdonare il peccatore.